capire se ti ricorderai di me. Forse ti ho dato il peggio di me. Resto sveglia e mi chiedo perché piove su questa città, dove tu mi hai voluto bene, dove io ti ho voluto bene. Perché questa notte non corri da me, ti ho lasciato nel vento una musica, spero che ti parli di me. E l'amore non se ne va, vola via ma poi torna da te, come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché, e spero ti porti da me. No, ma a volte capita di incontrare qualcuno a mezzo alla via che ti ricorda cos'è la vita, che cos'è fino a qui senza te. È una lama che sa di miele, cade a terra un altro bicchiere. Perché questa notte non corri da me, ti ho lasciato nel vento una musica, spero che ti parli di me. E l'amore certe volte non c'è un perché, e spero ti porti da me. Spero che ti parli di me. E l'amore non se ne va, vola via ma poi torna da te, come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché, e spero ti porti da me.